pezzi di merda. Questo è Mad Men. Dall'altra parte 3D Bunker Studio 2010. Com'è che va? Più fallito dei tuoi rapper preferiti. E la verità è che non c'ho davvero un cazzo da perdere, quindi con me non puoi fottere. Ok, ragioniamo. Questa merda che ti ascolti è trash music. Solo per i più sconvolti è trash music. Fino agli occhi capovolti è trash music. Trash music. Trash music. Doppia M sono i traccia, il tuo stereo va sul repeat. Lo comprende chi si spaccia per vero e mi manda un beat. Lo comprende chi ha la faccia da scemo e mi chiede un feat. E pretende che mi piaccia davvero e faccia la hit. Trash music come te, come chi ti ha spinto il video. Dove hai fatto il finto figo. Morirete cucinati dentro testi allucinati che scrivo alla quinto rigo. In incontri ravvicinati che vivo del quinto tipo. Tipo questa base bomba che di mio fratello ombra. Ed ogni volta che la pompa rimbomba dall'oltretomba. Dove fumo sigarette con estratti velenosi. Poi mi ammazzo di pugnette finché sfioro la psicosi. Giro con tipi che sono bruciati con la scimmia sulla schiena. Io faccio musica per complessati, se te l'ascolti c'è qualche problema. E mia madre si dispera perché non faccio carriera. Sto tra i rapper più malati in una scena in quarantena. Questa merda che ti ascolti è trash music. Solo per i più sconvolti è trash music. Fino agli occhi capovolti è trash music. Trash music. Trash music. Non potete essere uguali a me, voi siete tutti illusi. Faccio il giro dei locali finché sono tutti chiusi. Alle canne di Boccali c'ho neuroni tutti fusi. Non ho più amici normali, sono tutti brutti musi. Io che c'ho tutti gli attrezzi, do i pezzi ma sotto banco. Tu pensi e pettego lezze, li screzzi da rotocalco. E c'hai due amici mezzi fessi che pippano borotalco. Pagando gli stessi prezzi di platino e d'oro bianco. E invece la mia vita sociale dentro un portale. Dove metto in riga puttane come un contabile. Da quando non sto in coppia c'ho lo scroto che mi scoppia. Mi ammazzo di pugnette finché arrivo in cifra doppia. E non so niente a memoria, nemmeno la Ben Maria. Ma so qualcosa di storia, tipo Mister Simpatia. E me lo ascolto quasi sempre, 7 giorni a settimana. Mi aiuta a tenere in mente di non fare la puttana. Ai miei live non ti portare la tipa, sei una minorenne. Non mi ripetere quanto è figa, fidati me ne sono accorto. Ma porta l'ombrello perché poi piovono bestemmie. E poi chiudi porte battenti altrimenti ci scappa il morto. Questa merda che ti ascolti è trash music. Solo per i più sconvolti è trash music. Fino agli occhi capovolti è trash music. Trash music. Trash music. Non potete essere uguali a me, voi siete tutti illusi. Faccio il giro dei locali finché sono tutti chiusi. Alle canne di Boccali c'ho neuroni tutti fusi. Non ho più amici normali, sono tutti brutti musi. Trash music, figli di puttana, rotti in culo di merda. Avete rotto il cazzo, porco Dio. Io sono un esaurito fottuto, ma nessuno mi chiama a suonare. E fare rap italiano è la cosa più merdosa del mondo. Non potete essere uguali a me, voi siete tutti. Faccio il giro dei locali finché sono tutti chiusi. Alle canne di Boccali c'è neuroni tutti fusi. Non ho più amici normali, sono tutti brutti musi.